Buonasera a tutti, ciao, come state? Beh, speriamo bene, io vi devo salutare caldamente. Siete su Radio Cerrano Web, naturalmente questa è la voce di Carl Bartleboom. Questo è Radio Cerrano, come vi dicevo, che potete naturalmente ascoltare su una serie di piattaforme digitali, niente male, Facebook prima di tutto, poi stasera abbiamo fatto anche una diretta Instagram che ci sta dando grosse soddisfazioni. Insomma, stiamo sfruttando i social, come si suol dire, alla grande, e questo è un altro grosso indotto per noi delle web radio, delle radio via internet, anche se poi potete ascoltarci anche su piattaforme come TuneIn, Radio Garden, radio.net, Listen to my radio. Vi consiglio anche di farlo, di fare una capatina su Radio Garden, perché ha un'interfaccia grafica abbastanza carina, una specie, è un mondo enorme, che poi potete, è una specie di Google Map, di Google Earth anzi, e potete lì trovare tutte le radio del mondo che naturalmente per aree geografiche potete scovare ed ascoltare, e ci siamo anche noi, questo ci inorgoglisce. Abbiamo problemi al microfono? No. Sì? Che dici? O alla cuffia? Alla cuffia, bene, meglio così. No, questa sera continuiamo, no, dicevo, vi devo ringraziare, vi dobbiamo ringraziare, perché mi dicono gli esperti qui che siete stati tantissimi la scorsa volta. Io ho avuto anche dei riscontri personali, e insomma la cosa fa piacere, perché la nostra è tutta roba artigianale, ci mettiamo dentro la nostra passione, ci mettiamo dentro le nostre conoscenze acquisite in anni di radio libera, ecco. E comunque questa è una radio, cioè voglio dire, tutti quelli che ci ascoltano, stavo riflettendo proprio oggi, anche voi insomma siete dei pionieri, perché non è semplicissimo distogliere l'attenzione dai programmi televisivi in queste serate, dalle partite, che ne so, o da altri fiction, dalle fiction, e magari tenere l'orecchio incollato, o magari sentire la radio di fronte a un computer. Ecco, forse questo un po' ci avvantaggia, questo nuovo modo di ascoltare musica tramite il computer. Bando alle chiacchiere, io direi che puoi far andare intanto il pezzo in sottofondo, questo qui, benissimo, perché comunque ci introduce, si chiama introduzione, ci introduce un po' alla seconda tranche di cantautori di cui parleremo stasera. Si parlerà soprattutto di Bologna e Napoli, due centri importanti, ma non solo, poi insomma naturalmente parlando di cantautorato, ma parlando anche di autori, la cosa un po' si allarga, me ne sono accorto preparando appunto il programma. Non è semplice tenere fuori qualcuno o mettere dentro quell'altro, eccetera, e quindi ho dovuto fare come più mi piaceva, e speriamo che piaccia anche a voi, ok? Thank you. Allora, questa era un Ivano Fossati, questo brano era un Ivano Fossati Dannata, e l'ho voluto mettere all'inizio appunto perché l'introduzione di un di uno degli album che diciamo fecero conoscere di più Fossati. Vi ricordo che Ivano Fossati nel 72, insomma, faceva parte di un gruppo che portò a Sanremo nel 72, dicevo, faceva parte di un gruppo, i Delirium se non sbaglio, roba del genere, che nel 72 presentarono un brano che andò fortissimo a Sanremo, Yesael. E comunque Fossati appartiene ancora a quella striscia genovese di cui abbiamo parlato nel programma scorso. Mi è piaciuto insomma inserire il suo brano all'inizio proprio per fare una sorta di trade union tra quello che abbiamo detto la scorsa volta, quindi è quello di cui parleremo questa sera, insomma i musicisti di cui parleremo questa sera. Perché Fossati comunque è un personaggio, un musicista che ha cambiato un pochettino la poetica, anche il modo, soprattutto negli anni Ottanta, il modo di fare il cantautore, mettiamola così. Quindi di area genovese, poi ha avuto una serie di esperienze importanti e diciamo che poi negli ultimi tempi si è affermato non solo come cantautore ma soprattutto come autore per una serie di musicisti cantanti italiani. Quindi musica di Fossati su cui poi torneremo, penso, ma da Genova spostiamoci immediatamente verso Bologna. Cosa c'è in fondo a quest'oggi, di mezza festa e di quasi male, di coppie che passano sfilacciate come garze stese contro il secco cielo autunnale, di gente che si frantuma in un fiato senza soffrire, senza capire, e i tuoi pensieri sono solo noiato fra addormentarsi e morire. Che cosa c'è in fondo a questa notte, quando l'ora del lupo guaisce e il nuovo giorno non arriva mai, mai, e il buio è un fischio lontano che non finisce, di minuti lunghi come il sudore, di ore che tagliano come falci e i tuoi pensieri, solo un cane in chiesa che tutti prendono a calci. Ma cosa c'è? Cosa c'è? Patria piastrelle di stazioni secondarie, strade più strade di avventure solitarie, clown della notte, valigie vuote, piene di trucchi per tragedie immaginarie. Telecomandi per i quotidiani inferni, battute argute di architetti postmoderni, amanti andate, piaceri arate, pallottoglieri per contare stati e inverni. Ma che cosa c'è? Proprio in fondo, quando bene o male faremo due conti, e i giorni goccioleranno come i rubinetti nel buio, e diremo un momento aspetti per non essere mai pronti. Signora Bovary, coraggio pure, tra gli assassini e gli avventurieri, in fondo a quest'oggi c'è ancora la notte, in fondo alla notte c'è ancora Era il 1987 quando Francesco Guccini, un altro che insomma ha dato una sferzata al mondo cantautorale. Ma io perché ho voluto inserire questo brano appunto dell'87, quindi non uno dei primissimi, perché comunque la scorsa settimana avevamo parlato un po' del cantautorato anni 70 e naturalmente Guccini c'è lì anche in quel periodo lì, c'è dentro sicuramente, ma c'è all'interno di quel movimento, all'interno di quell'area culturale, soprattutto con i testi. Ecco, il cantautorato targato 1970 è un cantautorato molto, ma molto, non dico autoreferenziale, ma comunque molto politicizzato, basato su quelle che sono su testi, soprattutto su testi, con pochissima attenzione alla musica. Tutto questo naturalmente evolve nel periodo che va fine anni 70, inizi anni 80, e naturalmente Guccini è uno di quelli che dai primi accordi scarni o quantomeno chitarra e voce, quindi con influenze molto americane in questo senso, quindi possiamo un po' definirla la Bob Dylan, poi passa a un qualcosa di più ricercato, a una musicalità un po' più ampia, un po' più piena, che poi ecco i frutti cominciano a vedersi anche con questi brani tipo quello che vi abbiamo fatto ascoltare. Io vi propongo adesso l'ultimo Guccini, il Guccini diciamo della piena maturità, un brano

le cancellerai. Forse le canterai. È inutile negare che comunque la parola e il testo nei brani di Guccini hanno ancora una forza incredibile. Stiamo parlando di un brano che fa parte dell'ultimo album di Guccini, classe 1940, quindi stiamo parlando di un signore di 78 anni che 2 anni fa ha deciso di incidere questo CD. E lui lo ha definito il CD un po' dell'addio alla musica, il suo ultimo lavoro musicale, tant'è che lo ha registrato interamente nella sua casa di montagna, nel suo vecchio mulino, la sua casa posta sul vecchio mulino dei genitori da cui proviene lui. Insomma, lui è modenese, quindi poi è passato nel panorama musicale bolognese per forza di cose, e molti lo ricordano, molti studenti che hanno bazzicato l'università bolognese negli anni 70, fine anni 70, inizio 80, lo ricordano ancora nelle osterie insieme alla sua chitarra, alla sua immancabile chitarra e al fiasco di vino. Però stiamo parlando di un artista poliedrico, di un artista che si è dedicato alla musica, alla composizione appunto, ma anche soprattutto in questi ultimi periodi alla scrittura. Pensate che negli anni 80, fino alla metà degli anni 80, lui ha insegnato lingua italiana alla scuola off campus bolognese della Dickinson College, si tratta di un college, tecnicamente si chiama Liberal Arts College, con sede centrale a Carlisle in Pennsylvania. No, dico pensate un po', perché comunque negli anni 70 i testi di Guccini non è che fossero propriamente pro Stati Uniti, o comunque era il periodo della contestazione e della denuncia dell'aggressione statunitense, ad esempio al Vietnam negli altri paesi dell'America Latina. Io però trovo che questo ultimo Guccini sia di una bellezza stravolgente. Questo ultimo CD credo che sia veramente il massimo. Certo, è colmo di malinconia, colmo di sentimenti o di ricordi struggenti, però è di una maturità, di una bellezza, a mio avviso, straripante. Io vi propongo un altro brano da questo ultimo, da questa ultima tour di Guccini. Quando è stata quell'ultima volta che ti han preso quei sandali nuovi al mercato coi calzoni corti e speranza d'estate alla porta ed un sogno che più non ritrovi, e quei sandali duravano 3 mesi, poi distrutti in rincorse e cammino. Quando è stata quell'ultima volta che han calzato il tuo piede bambino lungo i valichi dell'Appennino? quando è stata quell'ultima volta che ti ho vista e poi forse baciata. Dimmi adesso, ragazza, da allora, quando e dove te ne sei andata, perché e quando ti ho dimenticata, ti sembrava durasse per sempre quell'amore assoluto e violento. Quando è stato che è finito in niente, perché è stato che tutto si è spento, non ha visto nemmeno settembre. Quando è stata quell'ultima volta che hai sentito tua madre cantare, quando in casa leggendo il giornale hai veduto tuo padre fumare, mentre tu ritornavi a studiare. In quei giorni ormai troppo lontani era tutto presente e il futuro, un qualcosa lasciato al domani, un'attesa di sogno e di oscuro, un qualcosa di incerto e insicuro. Quell'ultima volta che la vedi e la senti parlare, quando il giorno dell'ultima volta che vedrai il sole nell'albeggiare e la pioggia ed il vento soffiare ed il ritmo del tuo respirare, che pian piano si ferma e scompare. Beh, vi abbiamo fatto ascoltare fino all'ultimo secondo di questo brano perché, insomma, lo meritava tutto. È un Guccini ispiratissimo in questo ultimo CD, un Guccini, vabbè, come al solito, che gioca, che smonta, rimonta le frasi, le parole. Non per questo lui è un esperto di glottologia. Dicevo, un pilastro della scena musicale bolognese. Prima ho parlato di università e a tal proposito voglio salutare un mio vecchio amico universitario, Gigi, che so essere all'ascolto. Lui è un patito pure del cantautore, insomma, mi fa piacere che mi stia ascoltando. E poi saluto Lisa che ci sta ascoltando anche lei, insomma, sembra quasi di riscoprire i tempi della vecchia radio e facevamo i saluti io e Carlo, insomma, io e Carlo vi dovete sapere che stiamo rivivendo un sogno e noi stiamo benissimo, insomma, a noi piace tantissimo questa cosa perché ci fa tornare un po' indietro con nel tempo, e ci fa fare la cosa a cui abbiamo dedicato tantissimo tempo e tanta passione, cioè la radio. Per noi, insomma, questa cosa è incredibile, ci piace tanto. Credo che ve ne siate accorti anche voi dalle nostre parole, dalla nostra intensità, no? E quindi ecco, ho salutato i nostri amici e l'ho fatto benissimo. Vi ricordo che siete su Radio Cerrano, la radio del parco. Perché il parco? Questo lo dobbiamo dire, anche perché comunque la nostra immagine è completamente associata al Parco Marino Torre del Cerrano. Siamo la prima radio in Italia, credo, a essere un po' la radio del parco. Noi fungiamo anche come ripetitore per il parco, nel senso che promuoviamo tutte le iniziative del parco. Domani ce ne sarà una, infatti, e poi la potete sentire in podcast sulla nostra emittente. E questo anche, insomma, ci inorgoglisce un pochettino, perché siamo, insomma, anche in questo siamo stati e siamo un po' pionieri. Dicevo di Guccini, un pilastro del cantautorato italiano, della scuola bolognese, anche se lui è modenese, così come non è bolognese il prossimo che vi facciamo ascoltare, ma anche lui viene associato all'area, naturalmente, Emilia Romagna. E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba, il falso progresso ha voluto provare una bomba, poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta la morte perché è radioattiva. Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora, e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Un giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti, vorranno inclinare le stelle, la guerra tra i soli, i crimini contro la vita li chiamano errori. Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora, e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Eppure sfiora le campagne, accarezza sui fianchi le montagne, e sconfiglia le donne tra i capelli, corre a gara in volo con gli uccelli. Eppure il vento soffia ancora. Ricordavamo naturalmente, io questa la cosa la ricordavo, no? Come finisce sto brano? Perché finisce un po' a tradimento, nel senso che chi fa radio doveva stare attento a sta cosa, perché ti trovavi di colpo così, nudo, dicevamo noi, con il microfono acceso e magari non eri pronto, però sta cosa ce la ricordavamo sia io che Carlo, e cioè che sto Pierangelo Bertoli finiva così. Di Bertoli bisogna dire Io l'ho associato subito dopo a, l'ho messo subito dopo Guccini, perché comunque diciamo che Bertoli è stato un po' in qualche modo fedele alla linea fino in fondo, fino alla fine dei suoi giorni. E lui lo possiamo definire come l'ultimo cantastorie, lui si definiva appunto un cantastorie più che un cantautore, perché comunque, come avete potuto ascoltare dal testo, da questo testo, ma insomma da un po' tutti i suoi testi, lui era un narratore della vita socio-culturale italiana, ma soprattutto un po' il paladino dei più deboli, tant'è vero che è stato più volte accostato il suo nome a quello di anarchici famosi e anche a cantastorie anarchici, come ricordo Pietro Gori. E quindi mentre alcuni, insomma, quelli che avevano iniziato insieme a lui si sono poi lentamente distaccati per avere da tematiche sociali e politiche, lui insomma è rimasto lì, anche se poi è entrato anche in ambiti non prettamente politici con i suoi testi. Caccia la Volpe, ad esempio, mi ricordo che era un brano che parlava appunto di un corteggiamento particolare, quindi lui paragonava la caccia alla volpe al corteggiamento e alla fine al coronamento di tutto questo, al coronamento di un amore. Quindi dicevo, Bertoli che incarna un po' il cantautore, il cantastorie politico anarcoide, che però fece tanta presa anche sul pubblico. Noi abruzzesi abbiamo avuto un particolare rapporto, diciamo, d'affetto con Bertoli, perché un impresario, il suo impresario favorito, diciamo, era di queste zone, e quindi noi ce lo trovavamo spesso in giro qui in concerti, quindi molti di noi hanno ascoltato più di un concerto di Bertoli, perché lo si trovava o in Feste dell'Unità o in altri ambiti, ed era presentissimo in quest'area qui, teramana, abruzzese, e così com'è presentissimo un altro cantautore che addirittura risiede qui, che magari, ne so, magari è all'ascolto, Goran Kuzminak, risiede a pochi chilometri da dove stiamo trasmettendo, e un altro importante tassello del periodo anni 80. E a me piace comunque proporre un altro brano di Bertoli, perché insomma se lo merita, e con questo salutiamo, chi dobbiamo salutare? Lorena, sì, a cui stiamo facendo compagnia, quindi dai compagni di università passiamo ai compagni di scuola. La donna senza nome disse al giovane signore: sei bello e vorrei stenderti in un prato, spiegarti sulla pelle nel ritmo dei respiri che ti volevo, ti ho desiderato. Se fossi stata libera di avere un'opinione di come poter vivere il mio sesso, avrei potuto scegliere di fare un'altra strada, oppure sarei stata come adesso. C'era una volta, non ricordo dove fu, so soltanto che da qualche tempo non c'è più. Il giovane signore, seduto sui suoi anni, nuotava dentro un mucchio di rifiuti. Aveva i suoi problemi, difficili rapporti, un sacco di concetti sconosciuti. La donna lo fissava, cercava di spiegarsi, non era lì per chiedere un rimborso. Per quanto fosse giovane, per quanto fosse uomo, doveva condividere il discorso. C'era una volta, non ricordo dove fu, so soltanto che da qualche tempo non c'è più. Credo che la fame sia un debole pensiero per chi l'ha avuta solo nelle orecchie, e libertà è un discorso per chi non sta in prigione, e i giovani non sanno cose vecchie. Il tragico signore aveva un apparecchio per ricomporre i pezzi del dolore, sollecitò i transistor, guardò nel terminale trovandoci una dose per due ore. C'era una volta, non ricordo dove fu, so soltanto che da qualche tempo non c'è più. Sull'onda dei rimpianti, di tarde ribellioni, di strade brutte, strette, male usate, la donna disse merda, frugò dentro un futuro di plastica e di luci colorate. Il giovane signore vedeva di lontano le case dove brulica la gente, raccolse i suoi domani del tutto programmati e pianse senza il minimo incidente. C'era una volta, non ricordo dove fu, so soltanto che da qualche tempo non c'è più. C'era una volta, non ricordo dove fu, so soltanto che da qualche tempo non c'è più. C'era una volta, non ricordo dove fu, so soltanto che da qualche tempo non c'è più. C'era una volta, non ricordo dove fu, so soltanto che da qualche tempo non c'è più. Era il suo vizio, quello di finire i pezzi così, e stavamo parlando di Bertoli e della sua poetica, no? della sua musica, e questo era una leggenda antica e qui insomma non si parlava di politica, si parlava d'amore, si parlava appunto della leggenda antica dell'amore e io direi di mandare subito il prossimo brano, perché comunque si tratta di un brano che segnò uno spartiacque epocale, direi. Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po', e siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità, l'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Esce poco la sera, compreso quando è festa, e c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra, e si sta senza parlare per intere settimane, e a quelli che hanno niente da dire del tempo ne rimane. Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, tutti quanti stiamo già aspettando. Sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno, ogni Cristo scenderà dalla croce, anche gli uccelli faranno ritorno. Ci sarà da mangiare e luce tutto l'anno. muti potranno parlare mentre i sordi già lo fanno. E si farà l'amore, ognuno come gli va. Anche i preti potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età. E senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse troppo furbi e i cretini di ogni età. Vedi caro amico, cosa ti scrivo e ti dico, e come sono contento di essere qui in questo momento. Vedi, vedi, vedi, vedi, vedi caro amico, cosa si deve inventare per poter riderci sopra, per continuare a sperare. E se quest'anno poi passasse in un istante, vedi amico mio come diventa importante che in questo istante ci sia anch'io. L'anno che sta arrivando tra un anno passerà, io mi sto preparando, è questa la novità. L'ho chiamato brano spartiacque, lo potrei chiamare anche brano anticipatore. Era il 1979 quando Lucio Dalla venne fuori con questo L'anno che verrà. Perché è un brano importante? Perché anticipa o comunque legge in anticipo, come spesso fanno gli artisti, come spesso fanno i musicisti, i poeti, i letterati, legge in anticipo ciò che stava accadendo e che sarebbe accaduto poi negli anni 80, gli anni del consumismo, della Milano da bere e comunque, se volete, del soggettivismo, del riflusso, del ritorno nel proprio io. Quindi anni 70, Guccini, cantautori, tutti concentrati sul noi, tutti concentrati sulla società, sulla condivisione, e poi fine degli anni 70, anni di piombo, grandi diciamo giorni dettati anche dalla paura, 78 delitto Moro, ecco, e poi anche la violenza degli autonomi. Tutto questo lo avrebbe portato la società italiana soprattutto a rinchiudersi in se stessa, a non uscire, e L'anno che verrà è la fotografia, credo, poi di un periodo che si sarebbe concretizzato in seguito, e Lucio Dalla in maniera incredibile cristallizzò appunto questo momento, questo periodo, ed ecco perché L'anno che verrà viene spesso messo come brano nei programmi cosiddetti seri, tra virgolette, come brano spartiacque, come vi dicevo prima, tra un periodo, tra un'epoca che stava finendo e un'epoca che stava iniziando, e questa che sentite era l'epoca che poi iniziò, e per Dalla insomma iniziò nel migliore dei modi. Io devo dire che ho un ricordo bellissimo con il prossimo brano che sto per mandarvi, perché ero presente al concerto in cui Dalla a Bologna, in cui Dalla presentò questo disco, e fu un disco insomma che sbancò sotto tutti i profili. Anche qui un disco molto intimo, intimista, un disco che portava, un LP che portava dentro di sé le tracce di un guardarsi dentro piuttosto che un condividere con gli altri. Mm.

Dicevamo anche che, come tutti i cantautori, come tutti i musicisti, gli autori, i poeti, insomma, hanno le antenne un po' più dritte rispetto alla massa, e lui ha sempre un po' con questi dischi anticipato i tempi, ma soprattutto ha messo in campo una tendenza che ha fatto scuola poi negli anni, soprattutto negli anni Ottanta. Io ricordo, dicevo, la presentazione di questo LP, che è quello, vi ricordo, tutto bianco con la sua coppola e gli occhiali, no? È un po' rimasto nella storia della musica italiana, a Bologna, e con erano credo al Parco Nord, non mi ricordo quanti campi di calcio messi insieme, ed c'era una marea di gente, fu uno spettacolo incredibile. Comunque, ecco, Dalla, insieme a De Gregori soprattutto, lo dobbiamo ricordare anche perché tornò ad essere il primo a calcare un po' le scene gli stati, anche, anzi è meglio dire così, perché proprio negli ultimi anni, negli ultimi anni 79-80 credo, con il tour e il disco Banana Republic, i cantautori, i musicisti tornarono a girare, tornarono a fare concerti. Prima, negli anni 70, questo non era possibilissimo. Ecco, negli anni 70 purtroppo il clima era molto pesante, si ricordano ad esempio gli scontri a Roma degli autonomi contro De Gregori, ma lo stesso Santana ebbe una negli anni 70, 76 credo, o 74, vabbè, comunque ebbe problemi al concerto e non tornò più in Italia. Quindi il clima era pesantissimo. Con Banana Republic si tornò a respirare, ad ascoltare musica insieme, si tornò a respirare un'aria meno pesante, però naturalmente questo coincise con un momento di riflusso, come dicevano i nomadi, e quindi un momento in cui la gente era un po' più concentrata su se stessa, quindi la società italiana era più impegnata, ecco, a fare soldi, alla propria vita privata, vi citavo prima un famoso spot pubblicitario, la Milano da bere, ma poi ecco gli yuppie, eccetera eccetera, mentre i cantautori focalizzarono la loro attenzione su storie minimali, su storie minime, su storie anche in qualche modo che possono sembrare insignificanti, come quella che vi facciamo ascoltare. Anna, come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa. Se chiudi gli occhi lei lo sa, stella di periferia, Anna con le amiche, Anna che vorrebbe andar via. Marco grosse scarpe, poca carne, Marco cuore in allarme, con sua madre una sorella, poca vita, sempre quella. Se chiude gli occhi lui lo sa, lupo di periferia, Marco col branco, Marco che vorrebbe andar via. E la luna è una palla ed il cielo è un biliardo, quante stelle nei flipper, sono più di un miliardo. Marco dentro un bar non sa cosa farà. Poi c'è qualcuno che trova una moto e si può andare in città. Anna bello sguardo non perde un ballo, Marco che a ballare sembra un cavallo. In un locale che è uno schifo, poca gente che li guarda, sei una checca che fa il tifo. Ma dimmi tu dove sarai, dov'è la strada per le stelle, mentre ballo si guardano e si scambiano la pelle e cominciano a volare. Con tre salti sono fuori dal locale, con un'aria da commedia americana, sta finendo anche questa settimana. Ma l'America è lontana, dall'altra parte della luna, che li guarda anche se ride, a vederla mette quasi paura. E la luna in silenzio ora si avvicina, con un mucchio di stelle cade per strada. Luna che cammina, luna di città. Poi passa un cane che sente qualcosa, mi guarda, abbaia e se ne va. Anna avrebbe voluto morire, Marco voleva andarsene lontano. Qualcuno li ha visti tornare tenendosi per mano. Lucio Dalla, quindi scuola bolognese, scuola, sì, possiamo dirlo scuola bolognese per Lucio Dalla, ma anche maestro, perché comunque Dalla è stato uno di quei cantautori, di quei musicisti che ha sempre cercato di trovare e di scovare talenti. È stato il Pigmalione per gli Stadio, è stato il Pigmalione per Ron, è stato il Pigmalione per il prossimo che stiamo per ascoltare. Dicevo, un autore che ha attraversato la musica, il panorama musicale 70-80, e lo ha fatto da protagonista, ha sempre anticipato i tempi. È stato uno che, provenendo dal jazz, lui è famoso per il saper per suonare il clarinetto e essere anche un amico di Pupi Avati, anche lui, insomma, in quel periodo. Subito dopo la guerra il jazz nel bolognese, a Bologna andava per la maggiore. Dicevo, è stato uno di quelli che ha tentato, anzi ha scovato, ha trovato una serie di artisti che poi ha lanciato, e devo dire, insomma, che ci ha azzeccato abbastanza spesso. Questo che stiamo per ascoltare, di cui vi dico subito il nome, e cioè Samuele Bersani, è uno di quei talenti puri, a mio avviso. Non per questo, insomma, lui ha vinto una serie di premi, credo che sia stato uno dei più premiati dal Club Tenco. Il Club Tenco, vi ricordo, è quella specie di anti Sanremo, comunque quel Sanremo dedicato soprattutto alla musica d'autore. E fu proprio Dalla a scoprire questo talento bolognese, classe 1970. Troppo cerebrale per capire che si può star bene senza complicare il pane. Ci si spalma sopra un bel giretto di parole vuote ma doppiate. Mangiati le bolle di sapone intorno al mondo, e quando dormo taglia bene l'aquilone. Togli la ragione, lasciami sognare in pace. Liberi come eravamo ieri, dei centimetri di libri sotto i piedi per tirare la maniglia della porta e andare fuori. Come Mastroianni anni fa, come la voce guida la pubblicità. Ci sono stati dei momenti intensi ma li ho persi già. cerebrale per capire che si può star bene senza calpestare il cuore. Ci si passa sopra almeno due o tre volte i piedi come sull'aiuolo. Leviamo via il tappeto e poi mettiamoci dei pattini per scivolare meglio sopra l'odio. Torre di controllo, aiuto, sto finendo l'aria dentro il serbatoio. Potrei ma non voglio fidarmi di te. Io non ti conosco e in fondo non c'è in quello che dici qualcosa che pensi. Sei solo la copia di mille riassunti. Leggera, leggera, si bagna la fiamma, rimane la cera e non ci sei più. Vuoti di memoria, non c'è posto per tenere insieme tutte le puntate di una storia. Piccolissimo particolare, ti ho perduto senza cattiveria. Mangiati le bolle di sapone intorno al mondo e quando dormo taglia bene l'aquilona. Togli la ragione, lasciami sognare in pace. Libero come ero stato ieri, ho dei centimetri di cielo sotto i piedi. Adesso tiro la maniglia della porta e vado fuori. Come Mastroianni, anni fa sono una nuvola, fra poco pioverà e non c'è niente che mi sposto, vento che mi sposterà. Potrei ma non voglio fidarmi di te. Io non ti conosco e in fondo non c'è in quello che dici qualcosa che pensi. Sei solo la copia di mille riassunti. Leggera, leggera, si bagna la fiamma, rimane la cera e non ci sei più. Non ci sei più, non ci sei. Erano i Giudizi Universali di Samuele Bersani, e dicevo, un autore, un cantautore scoperto da Lucio Dalla, ecco l'aggancio con Lucio, perché nel 91 Lucio Dalla lo prese con sé e gli faceva fare una sorta di apripista ai suoi concerti, e, cosiddetto cambio tour, e quindi lui lo faceva esibire in apertura ed ebbe un grossissimo successo Samuele Bersani con un brano che forse molti di voi ricorderanno, e cioè il Mostro. E era un brano molto ben fatto, perché comunque Bersani riesce a lavorare bene sulle parole, sul testo e naturalmente anche sulla musica. Io credo che comunque che Bersani negli anni 90 abbia rappresentato una vera novità nel panorama cantautorale italiano, perché il suo modo di scrivere canzoni, di scrivere testi, credo che sia riconoscibilissimo, quindi una nuova linea molto più moderna rispetto a quelli che erano i cantautori classici. Io credo che fu proprio questo a colpire Lucio Dalla. Vi dicevo, Dalla gli diede l'opportunità e con questo brano, Il Mostro, che parlava di incomunicabilità, era la storia di questo mostro peloso a sei zampe, prima inseguito morbosamente da stampa e comunità scientifica, infine ucciso brutalmente. E questo è il pezzo che prelude un po' il brano, che prelude un po' il suo primo album, che Ci hanno preso tutto, e che uscirà credo nel 92, ecco. E qui c'è un altro successo all'interno di questo, Ci hanno preso tutto, c'è un altro successo che è Chicco e Spillo. È un brano anche questo molto ben costruito e anche qui moderno, molto moderno, con